in viaggio per gli Stati Uniti, a cura di Viaggi di Cultura di Bologna. La dottrina Monroe. È il 1823. Gran parte delle colonie portoghesi e spagnole nell'America del Sud si sono ormai dichiarate indipendenti. Ed è in quest'anno che viene scritta una dottrina che farà scuola e che verrà identificata come momento chiave nella definizione della politica estera degli Stati Uniti, la dottrina Monroe. Che cosa contiene questa dottrina? Innanzitutto l'affermazione, giudicata dagli europei in parte quasi ridicola, che gli Stati Uniti non interverranno nelle guerre tra potenze europee e nelle questioni interne delle potenze europee. Cosa più importante invece per la politica estera è che gli Stati Uniti affermano il continente americano è chiuso alla colonizzazione. Le colonie già esistenti vanno bene, non verranno toccate da noi, ma qualsiasi tentativo di creazione di una nuova colonia verrà considerato un atto per mettere in pericolo la nostra pace e la nostra sicurezza e quindi non rimarremo neutrali. Certo, per una potenza che all'epoca era molto piccola come gli Stati Uniti, un'affermazione molto potente. Ed è un'affermazione che sicuramente partiva anche da una filosofia libertaria, anticoloniale, che rifiutava il saccheggio continuo che veniva fatto invece dalle potenze europee in nome del mercato libero. È una dichiarazione che sappiamo però quella di non intervenire nelle questioni, a meno che non si trattasse di creazione di nuove colonie, totalmente non rispettata. Un esempio: tra il 1890 e il 1989 sono decine e decine le volte in cui gli Stati Uniti intervengono, soprattutto in America centrale e in America meridionale, poi dagli anni 50 in poi, come sappiamo, in tutto il mondo. Ora, il nostro tentativo oggi è cercare di capire questa dichiarazione così forte di definizione di politica estera da dove viene, perché gli Stati Uniti hanno sentito la necessità di esprimersi in questo modo, di caratterizzarsi in questo modo. Possiamo identificare proprio nella colonizzazione delle potenze europee un inizio di disgregazione di quello che era stato fino a quel momento, fino al XVIII secolo, la definizione di nazione e dei propri confini. Prima la ricchezza era legata al proprio territorio, ai propri confini, ma come sappiamo con la colonizzazione i confini si spostano, si ridefiniscono. E che cos'è che diventa importante? Non la terra, il mare, certo che era già stato così, ma in particolare in questo momento le rotte mercantili diventano strade di denaro e questa ricchezza va preservata. Per preservarla bisogna difenderla e per difenderla si considera legittima ogni azione militare volta a proteggere le proprie ricchezze. E dunque la dottrina Monroe, che poi porterà gli Stati Uniti a intervenire militarmente ovunque nel mondo, nasce in questo contesto di bisogno di difesa dalla potenza colonialista europea. Il mondo ha dunque perso i suoi confini come erano concepiti prima e ne sta creando di nuovi, meno definiti, che hanno bisogno dunque di essere protetti. E questo è un atteggiamento che vedremo viene considerato tale a livello globale e non solo dagli Stati Uniti. Viaggi di Cultura tornerà con un nuovo episodio di Un viaggio per gli Stati Uniti la prossima settimana.